Beh, martedì adesso non. Ok, è triste il martedì, capo, però essere così, cioè no. Vabbè, ma capo, vabbè. Va bene il lupo del martedì, che è una figura retorica che non è mai esistita. Tu di colpo dici il famoso lupo del martedì. Ma nessuno ha mai sentito nominare il lupo del martedì. Cappa. Ho capito. Qui quando gli schiacciano le balle. Chiedo asilo. Bentornati a Chiedo Asilo, un saluto da un salupo. Un saluto da drago. Ma non rinverdiamo questa cosa del martedì, quale luogo più lontano fisicamente e anche dal punto di vista proprio dell'anima dal venerdì, perché ha intristito mezza popolazione italiana. Sono arrivati messaggi di gente che hanno detto: ma cavolo, quella considerazione metafisica sul martedì mi già ha... cavolo. Vabbè, non posso dire l'altra parola, ma caspita. Ma non l'hanno mica scritto così. Hanno scritto. E cosa dicevano? Che insomma li ha intristiti in maniera globale per tutta la giornata. Quindi... Sì, voglio dire, ogni tanto anche i bambini devono affrontare le dure realtà della vita. E se il martedì si scatena il lupo del martedì, che è in tutti noi, fa paura a tutti. Ma è dentro di noi, per quello che fa paura, perché il lupo del martedì è dentro di noi. Allora, noi torniamo a un argomento invece più consono, noi, cioè i bambini magri, i bambini grassi, anzi i bambini obesi. Ma che palle. Allora, da uno studio pubblicato recentemente su quei giornali che regalano sul metrò, quando si evince che l'obesità infantile è causata spesso da madri anaffettive ed egoiste. Sì, vabbè, ma è la stessa cosa che dicono per chi si droga: ti droghi perché tua madre non ti ha voluto bene. Oppure ti droga perché tua madre ti drogava. Anche. Perché succede? Oppure, non so, è la stessa cosa che si dice per chi è violento: sei violento perché tua madre non ti ha voluto bene. Ecco, allora vedi, è importante voler bene ai bambini, sennò diventano anche grassi, secondo il giornale che regalano sul metrò. Sì. E poi finiscono in quelle trasmissioni di real time, tipo Grassi contro Magri, in cui un obeso di 300 kg e una anoressica si scambiano la dieta per una settimana e alla fine si mettono a piangere. Beh, è un bel plot. Sì. Comunque, sia l'obeso sia l'anoressica non hanno avuto l'affetto della madre. Certo che no. E fa tristezza. Comunque non sono cose che ci riguardano, perché le nostre mamme possono essere promosse, perché noi due ormai abbiamo una certa età e non siamo grassissimi. Non siamo violenti e non ci droghiamo. Quindi, cosa c'è? Perché non guardi? Insomma, c'è il naso che è lunghissimo oggi. Ancora, ma sono già super dotato di naso. Beh, devi smetterla di dire le bugie, no, ma io, ma quale bugia? Ma non so, non sono mica grasso, nemmeno violento. E la droga? Su, crescere, giù, sotto, rischio di default, il sindacato, togliersi la Svizzera, togliersi la signora Merkel, demonio. Capo, lo sapevi che è vietato lavarsi i denti a scuola? Ma cosa dici? Sì, succede a Bologna. Una mamma giornalista ha saputo dalla figlia che a scuola è vietato lavarsi i denti. Quindi... Ma come? Ma fanno sempre le campagne per l'igiene orale, le carie, lavateveli bene. Ai miei tempi, non so se anche a te succedeva la stessa cosa, davano delle disgustose pastiglie di fluoro, dovevi succhiare e ti faceva venire mal di testa. Vabbè, ci si lavava i denti fisicamente perché non c'era la mensa, a mezzogiorno tutti a casa, però erano tempi diversi. Adesso col tempo pieno, il fatto che si mangia in mensa... C'era la guerra. Lavarsi i denti dovrebbe essere obbligatorio, altro che vietato. Invece la stupidità burocratica a volte si mette di traverso e rende complicate anche le cose più semplici. Quindi in questa scuola elementare di Bologna è vietato lavarsi i denti perché la preside non si sente di garantire. La preside. Ah, si dice preside? Come si dice? Non preside. Preside? È di direttrice scolastica. La direttrice scolastica. La direttrice scolastica non si sente di garantire che nei bagni ci siano le condizioni igieniche necessarie. Quindi se i genitori però firmano una dichiarazione in cui si prendono la responsabilità, allora i bambini possono lavarsi i denti. Ma cos'è? Adesso un bambino va a lavarsi i denti con lo spazzolino, lo vede il bidello. Sì. Ah, fermale! Fa vedere di dichiarazione! Però non lo sai fare. Non lo so fare. Sochmel non è la parola giusta, gli dirà: ma mo fammi vedere la dichiarazione. La dichiarazione dei genitori con la S, davanti al lavandino. E non si può, quindi capito. Insomma. Quello che non capisco è: se le condizioni igieniche sono così precarie, allora anche fare la pipì potrebbe presentare dei pericoli. Ci vorrà anche lì l'autorizzazione dei genitori. Per fare la pipì. E anche per la cacca. Certo. Pensa se dimentichi l'autorizzazione a casa e ti viene un'urgenza di quelle. Non so. Come fai? Ma magari fai la firma falsa. Se no. Wunderwaffel. Ein Stadtmensch. Sie glauben wohl auch, dass wir hier oben etwas altmodisch sind. Wunderbar. Aber das stimmt nicht. Wir haben das frisch erfunden. Da ist Minze drin. In einer knackigen Füllung. Und zarter Schokibund. Wunderwaffel, wunderwaffel. Aber Vorsicht! Wunderwaffel. Ist cool, man. Aber Vorsicht! Ist cool, man. Wunderwaffel, wunderwaffel. Wunderwaffel, wunderwaffel. Wunderwaffel, wunderwaffel. Wunderwaffel, wunderwaffel. Wunderwaffel, wunderwaffel. Sei pronto? Pronto! Buongiorno! Mi parla direttore generale di Wunderwaffe AG. Buongiorno. Dica pure. Buongiorno. Lululu. Lululu. Come voi sapete, noi svizzeri ci piace tanto di ridere. Sì. Questo io vi chiamo. Voi Lululu. Allora siamo onoratissimi. Le piace la nostra trasmissione, il nostro programma? Ho detto che mi piace di ridere, ma vostra trasmissione non fa di ridere. A me piace che dopo tutto il lavoro di giorno, che tutto il giorno è di Wunderwaffel, certo. Qui, il mio ufficio di angolo, perché io sono amministratore capo supremo, tutto il giorno poi io torno a casa e io ascolto voi in radio e questo è causa sono profondo. Allora grazie tante, almeno questo. Io ho pensato che io posso aiutare a voi. Aiutarci. Quando sento voi, io penso che siete così noiosi e che non è colpa vostra, è perché voi non avete il nostro umorismo svizzero. E quindi? E quindi io voglio dire a voi come fare cartone animato di Wunderwaffel che fa ridere. Ma siamo alla radio. Potete mettere. Sì. Voi potete mettere bambino svizzero che mangia Wunderwaffel su cucuzzolo di montagna con mucca dietro che canta. Canta mucca, capito? Sì. E poi bambino che rotola giù di cucuzzolo. Si fa molto male, capito? Si fa male. E poi anche marmotta. C'è marmotta in un angolo, marmotta che ride. Capito? Sì, ma questo. Non è che. Non ringraziatemi per questo suggerimento, no. Perché io ho piacere di condividere mia vena comica con tutti gli altri. Tutti gli altri. Grazie. Grazie, direttore. Buona giornata. Come sta sua fidanzata Drago? Bene, grazie. Non... Anche a me è sembrata molto bene ieri sera. Non ho capito. Bella. Non ho capito. Questo è scherzato, no, che io ho fatto di ieri sera di fidanzata, hai capito? No. Come dire che lei è tu e lei Drago, tu tradito, no, del tuo fidanzato. No, vabbè. Ma... Scherzo svizzero! Pronto? Allo? Allo, Drago. E non rispondo. E ora, bambini, e la sonnellino. Drago. Oh. Psst, devo andare in bagno. Devo andare in bagno. Adesso non si può, c'è il sonnellino. Ma mi scappa. L'autorizzazione firmata dalla mamma, ce l'hai? No. Allora devi tenere fino a che usciamo. Ma non si può, è disumano. Sono le regole. Ma sono maggiorenne. Non importa, quando i burocrati ci si mettono è dura per tutti, anche per i maggiorenni. Cosa credi? Scusa, sta cosa dell'autorizzazione dei genitori era a Bologna, no? Com'è che di colpo? Sì, giusto. Come no? E allora, com'è che di colpo è anche qui all'asilo? Perché le notizie ormai, sai, circolano in fretta. Ma cosa vuol dire le notizie? Non appena si è saputa la storia della scuola di Bologna, in cui è vietato lavarsi i denti, anche il nostro asilo si è adeguato subito, capito? Subito. Comunque non si riesce a dormire quando ti scappa la pipì, non so. Dillo alla suora. E non c'è. Aspetta che arrivi, poi arriva, dai. Ma non ce la faccio, senti, io me ne frego, io mi alzo e vado. No, attento che hanno addestrato il Tito, il bassotto Geure per controllare che nessuno si muova dal banco durante il sonnellino. Io ti avverto. Sì, ma Tito, il mio bassottino di cipollino. Sì, ma cosa vuoi che faccia? Tito, Tito! Eric Dolphy, conosci? ci vediamo domani, se volete scrivete, chiedo asilo, radio24.it oppure Facebook. Questo è molto divertente.